Piccola Clarita, piccolo tesoro, sei tu la calamita per questo cuor. Piccola Clarita, fiore d'oltremare, sei tu la preferita che si sceglie per amar. Occhi blu, dal bel colore acqua marina. Occhi blu, che visti un dì, non scor di più. Piccola Clarita, piccolo tesoro, sei tu la calamita che m'attira sul tuo cuor. Acqua marina, occhi blu, che visti un dì, non scordi più. Piccola Clarita, piccolo tesoro, sei tu la calamita che m'attira sul tuo cuore.